poi sino all'apocalisse. Portami in posti senza alberi, umidi, mi giri di prima poco umili. Lunedì, le discussioni con gli stupidi. Martedì, non entra in chiodi grossi dentro buchi piccoli. Giorni ridicoli, da qui all'eclisse, e poi sino all'apocalisse. Fermando il vento con le mani, le mie mani. Ho inciso sulla pietra l'effigie dei nostri afri. La Sardegna e le sue strade di giallo colorate, terre bruciate contornate di rocce grigie. Dietro la rete che stringe, tutto sta per crollare, qui si capisce. A partire dai nervi sono sempre gli stessi, sempre meno verbi, ti perdi, mi segui. Sto viaggiando veloce, tanto l'acqua non basta rinfrescarmi la voce, dolce menta sotto a mia faccia. Sto sentendo l'odore della mia amata barbagia. Circondato dai miei mondi, sfiorato dal vento, avvolto dal gelo, nel posto dove vivo ci convivo. Isolato dal mondo, nella terra di vede il sole sorgere, la luce ad ascendere, la gente che ci vive, che non smette di combattere. Tra il vento che soffia, la pioggia che mi bacia, che mi bagna, mi accompagna per le vie del mio quartiere. Quando giro non resisto, perché tutto è stato visto. Portami in posti senza alberi, umidi, mi giri di rime poco umili. Lunedì, le discussioni con gli stupidi. Martedì, non entra chiodi grossi dentro buchi piccoli. Giorni ridicoli, da qui all'eclisse, e poi sino all'apocalisse. Portami in posti senza alberi, umidi, mi giri di rime poco umili. Lunedì, le discussioni con gli stupidi. Martedì, non entra chiodi grossi dentro buchi piccoli. Giorni ridicoli, da qui all'eclisse, e poi sino all'apocalisse. Né metallo né fuoco scalfiranno, indomito ste, ci sto provando. Estratto dall'asfalto di morsini, pietre preziose incastonate sopra visi scesi, vinicenti per poi trasformarsi mostri in briga. Finché non si scruta, sbrigati, sudomi. Trasudo nervosismo dalla pelle, questo è il metro. Espellere ogni liquido come a novembre il 13, capisci? Brindo alla notte che ci ha reso amici, il più forte che ho ingiallito come smalto che il tempo nel passato. Il suono ha preso piega e mi ha stregato. Sono acciaio che non si è piegato e non si spezzerà. Portami in posti senza alberi, umidi, mi giri di prime poco umili. Lunedì, le discussioni con gli stupidi. Martedì, non entra in chiodi grossi dentro buchi piccoli. Giorni ridicoli, da qui all'eclisse, e poi sino all'apocalisse.